Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano. Buongiorno a tutti per questo mercoledì 2 ottobre, Radio Zanardi, che come sempre tra manovra, manovrina, manovretta, apre invece con Radio Bullet. Buon ascolto. Buongiorno e benvenuti ad una rassegna delle notizie dall'est europeo. Io sono Yulia Kalashnik e vi do il benvenuto su Radio Bullets. E cominciamo subito con la Russia. Il 29 settembre a Mosca migliaia di persone si sono ritrovate di nuovo a Corso Sakharov per manifestare a sostegno di persone arrestate durante le manifestazioni negli ultimi mesi nella capitale russa, nonché contro i raid negli uffici dell'oppositore Navalny. Secondo i dati pubblicati dall'organizzazione di volontari russi White Counter, 25.200 persone hanno partecipato alla manifestazione del 29 settembre, precedentemente accordata con le autorità moscovite. Alla manifestazione si sono visti anche alcune persone rilasciate dopo l'ondata di arresti a Mosca, giornalisti e attivisti, nonché l'oppositore Alexei Navalny. Nei punti di controllo, attraverso i quali passavano le persone per entrare nel Corso Sakharov, la polizia aveva fissato le telecamere con riconoscimento facciale. Anche a Kazan, San Pietroburgo, Yaroslavl, Novosibirsk, Smolensk e Perm sono state organizzate le attività per la libertà dei prigionieri politici. Quasi 25.000 di ebrei cassidici sono arrivati in Ucraina il 28 settembre per celebrare la festa di Rosh Hashanah, che segna il nuovo anno 5780, secondo la cronologia ebraica. I pellegrini ebrei vengono a visitare l'ultimo luogo di riposo di Nachman di Breslov, il fondatore del ramo di giudaismo cassidico di Breslov, che visse tra il XVIII e XIX secolo. Quest'anno i fedeli ebrei stanno celebrando l'arrivo del nuovo anno, a partire dalla sera del 29 settembre fino alla sera del 1 ottobre. La Polizia Nazionale Ucraina afferma che nel luogo di pellegrinaggio non sono stati osservati gravi incidenti, sebbene siano stati registrati 8 casi di reati, tra cui furto, rapina, possesso illegale di armi da fuoco e droghe, come riporta Kyiv Post. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto la richiesta del presidente americano Donald Trump di indagare sul suo rivale politico, ex vicepresidente Joe Biden. Come scrive Reuters, il 30 settembre a Kiev, Volodymyr Zelensky, rispondendo alla domanda dei giornalisti se l'Ucraina aprirà mai un caso riguardante le attività del figlio di Joe Biden, ha dichiarato che l'Ucraina non condurrà un'indagine sugli ordini di altri paesi. Zelensky ha aggiunto che l'ufficio del presidente non pubblicherà nessuna trascrizione della chiamata con Trump del 25 luglio. La Casa Bianca ha pubblicato il suo riassunto della chiamata la scorsa settimana, in cui il repubblicano Trump chiedeva a Zelensky di indagare su uno dei suoi principali rivali nelle elezioni del 2020. Ex vicepresidente americano Joe Biden e il suo figlio Hunter, che era presente nel consiglio di amministrazione di una società ucraina del gas. E adesso andiamo in Georgia. L'ex presidente della Georgia e l'ex governatore di Odessa, Mikhail Saakashvili, ha affermato che il suo futuro politico è con la Georgia e non più con l'Ucraina. In un'intervista al canale di opposizione georgiano Montavari Akhrim, Saakashvili ha dichiarato che nei prossimi mesi sarebbe pronto a lasciare l'Ucraina e venire a Tbilisi proprio prima delle elezioni parlamentari in Georgia nell'autunno del 2020. L'ex presidente georgiano vorrebbe porre fine all'era politica di Ivanishvili, un uomo ricco di cui il partito Sogno Georgiano tiene le redini della guida del paese. Il terzo presidente della Georgia, Mikhail Saakashvili, aveva lasciato il suo paese nel 2013, dopo il secondo mandato della sua presidenza. Successivamente non è stato in grado di ritornare per lunghi 6 anni perché contro di lui sono stati aperti alcuni casi penali. L'ex presidente georgiano è stato accusato di vari reati, tra cui abuso di potere e dispersione forzata di una manifestazione pacifica. Precedentemente è stato privato anche della cittadinanza georgiana. Attualmente è cittadino ucraino. Il 26 settembre, nella 74esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i ministri dei affari esteri della Georgia e della Russia, Sergei Lavrov e David Zalkalyani, si sono incontrati per la prima volta dalla guerra lampo del 2008, che ha visto contendere le regioni di Ossetia del Sud e Abkhazia, e dalla successiva interruzione delle relazioni diplomatiche tra i due paesi. Durante l'incontro, stando alle dichiarazioni del Ministero degli Esteri georgiano, la parte georgiana ha sollevato la questione della disoccupazione delle sue regioni di Abkhazia e Zinkhvali, che si trova nell'Ossetia del Sud. Zalkalyani e Lavrov hanno anche parlato di recenti sviluppi nelle regioni occupate, nonché delle questioni problematiche delle relazioni Georgia-Russia. Il Ministero degli Esteri russo ha anche affermato nella sua dichiarazione ufficiale che durante la riunione i parlamentari georgiani e russi hanno discusso le questioni della sicurezza regionale. E finiamo con Azerbaigian. Il vicepresidente del Partito Popolare dell'opposizione dell'Azerbaigian, Fuad Kvahramanli, si è dimesso dopo che la sua figlia maggiore lo aveva accusato di violenza domestica. L'accusa ha causato una reazione molto violenta sui social network e sui media. Kvahramanli ha dichiarato di rassegnare le dimissioni per non recare i danni ai leader del partito Ali Karimli e all'intero partito. Il leader politico è stato accusato dalla sua figlia di violenza domestica, crudeltà e sadismo. La 18enne Seijan, nella sua pagina Facebook, ha dichiarato che suo padre è un criminale che ha rotto il ginocchio di sua figlia e le dita di sua moglie. La ragazza ha detto che l'atmosfera che regnava nella sua famiglia negli ultimi 10 anni è stata terribile, poiché suo padre picchiava costantemente la sua madre, lei e sua sorella, e che i suoi compagni di partito hanno invitato la sua madre di rimanere in silenzio per non rovinare la carriera politica dell'uomo. Dopo aver letto le dichiarazioni di sua figlia, Fuad Kvahramanli ha dichiarato che la pagina Facebook della ragazza è stata violata. Ma non si è fatta attendere la smentita che è arrivata da sua figlia, che ha confermato tutto quello che aveva scritto in precedenza. Quindi il politico ha cominciato a dire che sua figlia era semplicemente molto drammatica. Ma la moglie di Fuad Kvahramanli ha confermato le parole di propria figlia. Senza entrare nei dettagli, ha semplicemente detto che Seyhan stava dicendo la verità. L'accusa della ragazza ha sollevato una forte polemica sui social network e sui media. Per oggi è tutto. Io sono Yulia Kalashnik e prima di salutarvi vi ricordo che se volete sostenere Radio Bullets potete farlo andando sul sito radiobullets.com. Radio Bullets è una testata indipendente che non ha fondi statali o pubblicità, con un forte credo nel giornalismo di qualità che racconta il mondo e ciò che vi accade. Chiediamo solo 50 euro all'anno per poterci permettere di fare meglio e di più e vi ringraziamo per il sostegno e per l'ascolto. again. Fun is the thing I'm after. Now let's all live it up today. Get set for love and laughter. Well, let's go. Time isn't here for wasting. Life is so full of sweet, sweet things. I'd like to do some tasting. Hooray, hooray. It's a holly, holly day. What a world of fun. Ora parliamo di giornalismo perché è un tema molto ricorrente tra la potenzialità dei mezzi e delle fonti e magari a volte la povertà del risultato finale. Ne parliamo con questa intervista a Liberti che appunto ci narra di questo intreccio tra potenzialità e risultati effettivi. Diciamo che nel giornalismo di oggi ci sono molti più strumenti che non vengono sempre usati. Oggi è possibile incrociare diversi media e effettivamente è una cosa che è sempre più alla portata di tutti, ma sempre meno praticata per tutta una serie di ragioni. Primo perché non c'è una professionalità e secondo perché comunque questo richiede anche un impiego di risorse maggiore a quello che normalmente vengono messe in campo. Io quello che proverò a fare nel corso, nella masterclass tra due settimane, è analizzare un po' di lavori che ho fatto io negli ultimi anni, analizzare un po' di lavori che altri hanno fatto sia in Italia che all'estero e cercare di capire quali sono appunto, qual è il valore aggiunto di questi prodotti cross-mediali e come ognuno di noi, ogni giornalista deve essere in grado di dominare diversi media e scegliere di volta in volta quanti e quali di questi strumenti può utilizzare per raggiungere al meglio i propri obiettivi. Verranno affrontati dei temi particolari nel corso della masterclass? Sarà soprattutto una masterclass di tipo diciamo, pratico-metodologico, nel senso che io mostrerò alcuni lavori, cercherò di raccontare come sono stati condotti e anche come sono state trovate le risorse per condurli e poi si faranno una serie di esercitazioni, una serie di analisi di gruppo di altri lavori cross-mediali e infine un'esercitazione in cui i vari gruppi proveranno a elaborare un progetto di inchiesta cross-mediale partendo quindi da un'ipotesi, seguendo uno sviluppo, ma cercando anche di immaginare un layout in cui appunto i diversi strumenti multimediali si mettono insieme. Cosa consiglieresti a un giovane che vuole entrare nel mondo del giornalismo d'inchiesta? Consiglierei sicuramente quello di specializzarsi nell'utilizzo dei diversi media e quindi di non cristallizzarsi nell'utilizzo di un unico strumento giornalistico come avveniva con una divisione che ormai non funziona più fino a 10, 15, forse 20 anni fa in cui c'erano i giornalisti a carta stampata, i giornalisti televisivi e quelli radiofonici. Oggi un giornalista deve sapere quantomeno utilizzare questi diversi media, poi avvalersi di eventualmente di tecnici per avere un risultato il migliore possibile, però deve conoscere il registro e il codice di questi diversi media, perché poi sono codici molto diversi. E poi secondo me deve sempre di più invece a livello contenutistico prediligere l'approfondimento, perché il giornalismo generalista oggi non dà grande futuro, mentre io penso che fare delle inchieste e approfondire sia un po' il futuro del giornalismo, che sarà sempre più richiesto in un mondo in cui c'è una quantità mostruosa di informazioni e quello che manca, e comunque c'è un'accessibilità elevata alle informazioni, quello che manca invece è una capacità di interpretare le informazioni che circolano. E in chiusura vogliamo dare delle informazioni sull'iscrizione? L'iscrizione si fa, la masterclass si fa all'interno del Festival Terra di Tutti, che si svolgerà nel weekend del 12 e 13, e le iscrizioni si fanno sul sito di Terra di Tutti. Ma ci sono parole di burro, si sciolgono. passione, narciso, trasparenza e mistero. Cospargimi di olio alle mandorle, vanità. Modellami. Parole di burro nascondono proverbiale egoismo delle intenzioni. Narciso, sublime apparenza, ricoprimi di eleganti premure e sontuosità. Ispirami. se prende la fiesta y la guaracha, con su capa y su carro en la trampa, en el gobierno que le gusta la matraca. Llegó el santo, sea gringo, sea fresa, llegó el santo, sea rudo, sea fiera, llegó el santo, disparó por la avenida, llegó el santo, bailando quebradita, llegó el santo, con la raza en el chopo, llegó el santo, con los tipos en la mano, de quitan, oye, mira, el político robó esta chingada, se acabó, la mascarilla de Marco ya llegó el santo, el político robó esta chingada, se acabó, la mascarilla de Marco ya llegó el santo. Segna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali. Nove 30 minuti in punto di questo 2 ottobre, mercoledì. Il paradosso dei ragazzi, degli adolescenti, vanno in piazza ponendo questioni seriamente, drammaticamente impegnative come la sopravvivenza dell'ambiente, la riconversione ecologica, e invece il dibattito politico degli adulti, di quelli del palazzo, di quelli che dovrebbero aver studiato, che gestiscono i giornali, è una parodia, è sempre più una parodia che degna di un film di Alvaro Vitali. Per esempio, prendiamo Libero come apre questa mattina: il governo ci fa soltanto del male, titolo, stato più criminale delle Brigate Rosse. Questo è il titolo. Non paga i crediti alle aziende, aumenta il debito a carico degli italiani, non riscuote le cartelle esattoriali, ti impedisci di lavorare, causa giustizia lenta e burocrazia, elargisce bonus inutili, reddito cittadinanza, terroristi, delinquenti e fannulloni. Questo è il titolo di Libero, tanto per dirne una. Ma passiamo invece al giornale. Arriva la sanità comunista, finalmente sono arrivati i bolscevichi ad abbeverare i loro cavalli nella fontana di Trevi. Conte nuoce la salute. E qui c'è un clamoroso simoro, perché nel sottotitolo leggiamo: addio super ticket, curarsi costerà di più. No, dovrebbe essere: arrivano i super ticket, curarsi, non addio. Ma perché? Perché si prevede, nelle voci sulla manovra, una sorta di, per quanto minima, progressività del costo della sanità. E allora, quello che il giornale dice stangata sui redditi medi, no, è a dir poco medio ceto, medio alti, perché ormai i medi hanno allargato da Agnelli fino all'ultimo dei suoi operai. C'è qualcosa di differenza tra l'uno e l'altro. E poi passa l'infornata elettorale, assunti 24.000 precari nella scuola. Naturalmente ogni governo, gli ultimi, ha detto assumeremo dei precari, però se viene in letto è una infornata elettorale, anche se non ci sono elezioni all'orizzonte nazionale. E poi questa: tasse sulla casa, sempre il giornale, dazi USA, Macigni sulla ripresa. Ora, tasse sulla casa, leggo, perché è il tema di leitmotiv di Brunetta e Forza Italia, che rinnoveranno il catasto, aumenta la casa. Leggo dal Sole 24 Ore, non so se è comunista e bolscevico anche Sole 24 Ore, mi sembra improbabile, con Massimo Rogari e Trovati che salta il nuovo catasto. quindi non c'è una rimodulazione dei valori catastali. E dall'altra parte, i dazi nordamericani e l'Italia, si può accusare Conte di tutto, meno che essere lui che mette i dazi, che mette John Donald Trump e l'Italia. Quindi è tutto un paradosso, una parodia, per essere più esatti. Gli altri giornali più equanimemente dicono come fa il Messaggero, per esempio, pagano i redditi medio-alti sulla sanità. La Stampa invece dice che non è vero che ci affamano tutti, perché naturalmente la Stampa chi è già centro-sinistra, sotto i 26.000 euro in busta paga da luglio 200 euro in più, che non farebbe schifo, no? Evidentemente, se fosse che fosse la volta buona. Il Gazzettino nel Nord-Est, sanità, ticket legati al reddito. O ancora l'abbiamo il Mattino, che dice più o meno la stessa cosa, sanità, ticket legato al reddito. Perciò questo, oppure in Corriere fa eco i ticket in base al reddito. Detrazione azzerata oltre 300.000 euro. Quindi se assumi più di 300.000 euro hai le detrazioni azzerate. Penso che potrai sopravvivere, sinceramente. E anche se mai mettessero una tassa, che so, di 100 euro quando uno compra un SUV da 40.000 euro, penso che potrà sopravvivere, ma di questo non se ne parla neanche. Dunque, le famiglie verseranno per le colf. Anche questo sembrerebbe una cosa ovvia. Tra le misure allo studio, l'impossibilità di chiedere sgravi per pagamenti in contanti. Questo, quindi non c'è una punizione per chi paga in contanti, ci sarebbe un incentivo per chi paga con la carta di credito, sempre rimanendo sul tema delle commissioni bancarie, che esistono, sono un aggravio per commercianti e consumatori, e non si capisce perché debbano esistere se non per il solito profitto delle banche. Più tasse ambientali, invece, queste sono le 24 ore che gode di maggiore serietà e credibilità che i giornali della destra sopracitati. Più tasse ambientali, meno sconti fiscali, obiettivo 1,8 miliardi. Il nodo risorse, sappiamo che c'è poca biada per la manovra. Il governo punta sul taglio dei sussidi dannosi, nel mirino il differenziale dell'accisa sul gasolio. Per ogni cento di aumento maggiori entrate per 144 milioni. A questa rassegna che ha dato il via Alfredo aggiungo un'altra argomentazione che per il giornale dovrebbe essere o per Libero una cosa allucinante. Un DASPO per i commercialisti, sospeso chi favorisce le frodi antifisco. Ma è veramente un altro provvedimento allucinante. Come si fa a colpire chi fa il lavoro onestamente? Beh, non proprio onestamente, ecco. Comunque, l'Italia promessa da Repubblica, e aggiungo anche questa argomentazione a quelle già citate da Alfredo, che portano un motivo di meraviglia generale nel bene e nel male, quando invece sono situazioni che ci scattano una riflessione, cioè ma come eravamo messi prima, se queste cose qui ci danno così uno scalpore oppure un entusiasmo, che a quale situazione eravamo abituati, mamma mia, o ci stavamo per abituare. Per la sanità il pagamento del ticket in base al reddito con un tetto massimo di spesa l'anno, per la scuola un concorso per l'assunzione di 24.000 insegnanti precari, per il fisco battaglia l'evasione con la lotta ai contanti e sospensione ai commercialisti infedeli, obiettivo recuperare 7 miliardi, ecco la manovra promossa o promessa, come dice Repubblica, per ora dall'Unione Europea. Questo viene riportato anche dagli altri quotidiani, ovviamente il Via Libera da Bruxelles, approvati 14 miliardi di flessibilità. Il colloquio, parla Moscovici, all'Italia già concesso tanto, Gualtieri sa che l'Unione Europea non farà favoritismi. Pier Moscovici completa appunto l'articolo a pagina 5, Gentiloni completi l'unione bancaria e la riforma della tassazione dei giganti della rete, poi va semplificato il patto di stabilità, insomma salute, addio al super ticket, si pagherà in base al reddito, Roberto Speranza, il ministro della salute, chi ha di più deve pagare di più, chi ha di meno deve pagare di meno, ci sarà un disegno di legge collegato alla finanziaria sul riordino del ticket, insomma, e per l'istruzione la selezione degli insegnanti riguarda chi ha 3 anni di servizio su 8 nella scuola statale. Lasciamo Repubblica, prendiamo un altro argomento che è titolo principale della Stampa, sotto i 26.000 euro in busta paga da luglio 200 euro in più, trattativa con Bruxelles, gli effetti della manovra, addio al ticket sanitario uguale per tutti, e in più aggiunge questa situazione che, insomma, come ha detto giustamente Alfredo, caccia via, abbiamo battuto gli 80 euro di Renzi, partirà a luglio e sarà prima di 230 euro, poi dal 2021 di 500, il taglio al cuneo fiscale che intascheranno il lavoratori dipendenti con reddito non superiore a 26.000 euro lordi annui, trattativa serrata con Bruxelles e il governo vuole chiedere 6 miliardi di flessibilità. e non solo per quanto riguarda l'approfondimento, più nel dettaglio a pagina 5, oltre 200 euro in busta paga, ecco la rivoluzione del cuneo fiscale, aggiunge La Stampa. Proseguo con Il Manifesto, che invece è sotto la testata: gelo sulla manovra, Conte nervoso, il ministro della sanità Speranza, il ticket si paga in base al reddito, a Palazzo Chigi l'umore è nero, Conte si sfoga con i collaboratori, se la prende con chi per propaganda avrebbe fatto credere a un possibile aumento dell'IVA. Il malumore non è dovuto solo alle uscite di Renzi e Di Maio, pesa l'accoglienza fredda riservata alla prima legge di bilancio del nuovo governo. CGIL e CISL e UIL non mostrano entusiasmo, il presidente di Confindustria Boccia dice di non avere grandi aspettative per un nodo risorse che va affrontato. Le coperture per ora sono solo sulla carta e sul piano della crescita c'è poco, ma il ministro della Sanità Speranza annuncia quello che abbiamo già letto anche poc'anzi, e per Zingaretti il taglio del cuneo fiscale porterà 500 euro in più in busta paga, sì, da qui a lungo, con l'impegno di raddoppiare per l'anno prossimo. Pagina 2, pagina 3, coperture fantasma, sì, perché poco poi si parla delle famose coperture, poco slancio. La manovra certamente parte in salita, visto anche i contenuti che vi abbiamo appena esposto, e il Premier è irritato per le mistificazioni sull'imposta, ma pesa anche lo scarso entusiasmo di sindacati e Confindustria. Insomma, stringi da quello che si può sapere adesso, e un dato destinato a cambiare anche nelle varie contrattazioni intergovernative, intermaggioranze e poi interparlamentari. Ma per il momento il Corriere dice: le decisioni del governo, IVA sterilizzate, aliquote ferme. La lotta a chi evade vale 7,2 miliardi, le buste paga più pesanti, ma sono da collegare i post, per leggere le carte, 3 milioni, quindi 3 milioni di post da collegare non è una cosa semplice. Ma andiamo avanti, le voci presunte e il rischio rincari sull'evasione, i benefici sul cuneo fiscale dalla metà soltanto del 2020, di qui la prudenza e il non entusiasmo dei sindacati. Tutto questo contrasta naturalmente con la cacciara con cui abbiamo aperto. E devo dire che è utile il vademecum di Alessandro Robecchi in Piovono Pietre nel Fatto Quotidiano, perché ben fotografa la situazione. È un peccato che non ci siano in circolazione pensieri estremi, ma come? Tutti estremi pensieri. Invece Robecchi dice che è diverso. Che è un peccato che nessuno rompa la superficie per guardarci sotto, peggio ancora che nessuno guardi in alto, sognando, progettando cose che sembrano impossibili. Majakowski diceva: ehi voi, avanti con il cielo, tutto è medio, tutto è ragionevole, tutto agisce nell'orbita del consentito. Eppure, leggo più avanti, come per quasi tutto le cose resistono in farsa, in burletta, e così ci stiamo abituando lentamente al più noioso degli estremismi, ma quello dialettico, non quello dei contenuti, quello dialettico, che è quasi un solo paradosso, provocazione, in sostanza esagerazione, argomento dal talk show, talmente mitritizzati e assuefatti a certe caricature della realtà, però vendute come cose vere e assodate, che nemmeno ce ne accorgiamo più. L'ultimo caso abbastanza indicativo è quello delle reazioni agli ultracattolici sulla recente sentenza della Consulta al suicidio assistito, quindi cambiamo argomento per un attimo per far capire qual è il meccanismo, la dinamica, che è lecito solo, ricorda Robecchi, in pochissimi terribili casi, che prevede paletti rigidi e severissimi. Ed ecco arrivare la caricatura, la visione estrema che polverizza il ragionamento, nelle incursioni scritte e interventi di chi sostiene un no duro, pure definitivo a qualunque eutanasia, si presenta una realtà parallela in cui lo Stato autorizza il suicidio di chiunque, in qualunque momento. Cazzo, ho preso un 4 in fisico. Beh, tranquillo, vai all'ASL e ti fai fare una puntura di curaro. Oh, mi ha mollato la ragazza. E subito il medico pone fine alle tue sofferenze, di Giovanni Werther. Questo è Robecchi, che fotografa perfettamente la cacciara della destra, che vedremo se riusciranno a essere pifferai magici, portarsi dietro non i topi ma i coglioni dietro il piffero magico, oppure se sarà una cosa che un giorno ricorderemo con magari un sorriso. Il pericolo invece che ridiremo poco esiste, e come. Ma da questo naturalmente si va alla cosa brutale, che è quello che divide, che è la destra, è in prima fila la roba nostra, cioè i soldi. And you're okay. My- off my stack. Money, it's a hit. Don't get me back to good, good bullshit. I'm in a high fidelity, first class traveling section. I think I need a lift yet. Abbiamo parlato dunque della parodia, ma abbiamo citato in primis i giornali del centrodestra che fanno il loro gioco per quanto sporco, ma a questo gioco demenziale partecipano tutti, chiaramente i giornali che amano le notizie, tanto più sono splatter, sensazionaliste, complottiste, vengono tanto più pubblicate, perché il problema è creare delle emozioni nei lettori. Contribuiscono evidentemente anche tutte le vicende piccole di uomini piccoli della maggioranza, ognuno cerca di prendersi un merito attaccando il vicino di governo, l'ultima cosa appunto di chi è il merito della sterilizzazione dell'IVA. Naturalmente Italia IVA, come diceva il manifesto di Viva di Renzi, c'è merito mio, i 5 Stelle pure, e attaccano il PD, dice non è vero, io non l'ho mai detto, il Palazzo Chigi smentisce questo difensore dell'IVA a differenza di altri, insomma, vero non vero, tutto diventa un vero verosimile falso falsissimo che garantisce ogni tipo di sciocchezza comparsa. Quindi abbiamo dalla scissione all'asse sul fisco, questa è Maria Teresa Meli negli equilibri presentati alla Corriere della Sera, metamorfosi di Renzi Di Maio, la strana coppia di ex nemici. Gli interessati minimizzano, ma la sintonia preoccupa PD e Conte, perché naturalmente il leitmotiv è sempre vedere il governo che scivola e va nella crisi elettorale, vero non vero, a questo punto è difficile distinguere al lupo e quando il lupo possa mai arrivare. Il retroscena invece, anche qui siamo nel retroscena perché chiaramente la mancanza di un'ufficialità chiara favorisce i retrosceni, i retroscenisti e anche i pallottari. Questa volta è Francesco Verderame che nel retroscena parla del ritorno del numerino 2,4, il capo del governo spera in un'ulteriore quota di flessibilità, ma la trova rock italiana, Gentiloni, Gualtieri, Amendola, Frena. Quindi negli ultimi giorni sembrerebbe che quella luna di miele che era scoppiata col Sassoli, poi con la vicenda di Gualtieri in Europa, sia già finita. Siamo sempre ai falchi, almeno leggere i giornali. Il messaggio, il racconto di un membro del governo, Paolo ci ha detto non va allargate. Ecco, come sempre per raccontare la politica al popolo si va sul trucido. Il secondo obiettivo, tentativo, l'obiettivo di Conte è riuscire da lì dove fallì il primo tentativo, e stavolta non c'è Salvini. Questo sarebbe il commento del Corriere. Nel frattempo, sempre parlando delle cose di governo, si parla di una riforma elettorale che metterebbe fuori gioco il referendum della Lega, che vuole abolire la parte della quota proporzionale dell'attuale legge Mattarellum, cosa ampiamente anticostituzionale, già deliberata come tale. Ma se si va poi a un proporzionale pure o un proporzionale, è chiaro che non puoi abolire il proporzionale, dopo non rimane più l'elezione. Zingaretti, no al proporzionale puro, dice il leader del PD al Corriere, lo combatterò. Passa in commissione il taglio dei parlamentari, il PD chiede garanzie, il P5 Stelle noi leali. Quindi vedremo questa lealtà avrà che tempi e che modifiche ai regolamenti elettorali e alle circoscrizioni elettorali avrà. Sì, certo, le argomentazioni sono tante per quanto riguarda l'aspetto di politica, finanza e quelle che sono le riforme, e non solo nei rapporti con l'Italia ma anche con l'estero, vedremo più avanti. E sul lavoro, ci sono determinate situazioni che purtroppo proseguono e continuano tristemente. Due morti sul lavoro alla FCA di Cassino, sciopero di 8 ore, strage infinita nello stabilimento ex Fiat, un manutentore di 40 anni schiacciato da una presa. Intanto gli Agnelli ricominciano a chiudere fabbriche, Pregnana e San Mauro. Nel piano CNH Industrial la fabbrica milanese perde le produzioni, quella torinese sarà trasformata in un magazzino. La soluzione? Beh, si fa presto a dire, 300 licenziamenti. Taranto, sciopero di 24 ore, appalti, ex Ilva, licenziamento e tagli salario con ArcelorMittal e Joint Venture. Ai nuovi bandi con ribassi del 40% partecipa anche lo stesso gruppo franco-indiano. E intanto che succedono queste cose, che tra l'altro vanno corredate anche con quella che è la famosa gig, quelli lavoretto, una volta si chiamava così, il rider, la lotta contro il cottimo, è arrivato in Parlamento, al Senato le audizioni sul decreto per i ciclofattorini e scontro con le piattaforme. La ministra del lavoro Cattalfo riconoscere le tutela della subordinazione. In un video proiettato all'Università di Bologna durante il convegno Riding the Platform, quale regolazione per i lavoratori delle piattaforme, che sono assolutamente ancora, e da quanto tempo è che se ne sta parlando, ma in alto mare. Come, questo è per quanto riguarda il lavoro. Fortunatamente ne riporta notizia il Manifesto, anche se sono disgrazie altro che si potrebbero tranquillamente, con attenzione, con controllo e con quella che è tutta quella burocrazia che viene ritenuta in maniera negativa un danno alla produttività, ma che sarebbe fondamentale, guarda un po', per salvare vite umane e tra l'altro rendere allo stesso modo anche la produttività più feconda e più sicura. Pagina 5, sempre sul Manifesto, invece si parla di ambiente, perché anche su altre testate abbiamo questa argomentazione, perché si parla di Roma e si parla di AMA, l'azienda che si occupa dello smaltimento rifiuti e metropolitane. Giornata nera per Roma, si dimette il CDA AMA, a rischio liquidazione l'azienda si occupa della metro C, la polizia travolge, il blocco dei lavoratori, viene ferito Fassina. È stata una giornata pesantissima per Roma, la sindaca Raggi nomina subito come nuovo amministratore unico Zaghis. Quindi insomma non tira certamente una bella aria. Oltretutto anche vi sono state manifestazioni di protesta con tanto di scontri. Durissimo Fassina, Raggi porta deliberatamente le aziende municipali verso il fallimento per privatizzarle e regalarle ai soliti noti, servizi essenziali e grandi profitti da attività di monopolio. Chiudo sempre dal Manifesto, una discarica abusiva sommersa nel lago di Iseo, scoperta sul fondale una piramide di copertoni alta 40 metri, quindi non è Montisola in mezzo che è la bellezza, una delle isole tra virgolette lacustri più belle, ma è una montagna invece in questo caso sotto lago di copertoni di 40 metri, quindi un palazzo bello alto, una montagna di rifiuti, di scarti industriali in fondo al lago di Iseo, nelle acque di fronte al comune di Taverno Bergamasca. E questa è la scoperta che lunedì hanno fatto in nuclei subacquei dei carabinieri di Genova, intervenuti per recuperare un'auto uscita di strada e sprofondata pochi giorni prima nell'acqua del lago. Oltre alla macchina, però, le perlustrazioni dei fondali hanno rivelato ingenti quantità di rifiuti depositate sul fondo. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di scarti delle produzioni industriali delle aziende dell'adiacente distretto della gomma. Anch'io parto dal lavoro, dalla notizia che ci dà anche il Fatto Quotidiano: morire di lavoro a Cassino succede anche nell'ex Fiat. Ma il Fatto Economico, parlando di Fiat, anzi di FCA, ci dà dei bruttissimi chiari di luna, con Ettore Boffano. Il declino di FCA adesso fa paura, ultima chiamata per il governo. Gli analisti di UBS bocciano la strategia, Maserati e Alfa in crisi, impianti italiani mezzi fermi e caos alleanze. Il gruppo si limita ai soliti annunci, Patuanelli convoca il tavolo, è la volta buona, si domanda il Fatto Quotidiano, ma in realtà i guai sono anche negli state, perché viene arrestato un manager italiano per il caso Dieselgate, mentre il colosso patteggia una multa della SEC per aver gonfiato i dati delle vendite. Lavoro anche in chiave cronaca locale, crisi dell'automobile pre-aspetto Drassi, Marelli 910 in cassa integrazione. Leggo sempre, questa volta, il Corriere Bolognese. E per quanto riguarda i Drassi, evidentemente che è il grande problema che abbiamo di fronte. Abbiamo Pompeo che a Roma è in visita da Conte. Conte chiede uno sconto sui dazi. Pompeo, siete un alleato chiave. Tradotto dal Fatto Quotidiano, Pompeo dice: possiamo farvi degli sgravi sui dazi se investite più nella difesa, cioè più nella NATO. Questo è il giroconto dei soldi. Detto questo, tu parlai dell'ambiente, molto preoccupato, facendo un tredunion tra il governo, le maggioranze, le elezioni, l'ambiente, molto preoccupato per Francesco Borgia del Giornale. I sedicenni al voto, fragili e sensibili solo all'ambiente, sono molto meno sensibili ai tortellini o agli zingari. E l'Istituto Superiore della Sanità lancia l'allarme: l'utilizzo dei social tra i più giovani è problematico. È problematico quando riporta l'ambiente, se invece riporta a linciare una donna perché magari porta la minigonna, invece è molto meno problematico per il giornale. Allora anch'io guardo l'ambiente. E ancora, guardando dal punto di vista del money, l'economia del futuro, la strada per un mondo senza CO2. Ci dispiaceranno Zichichi e il professor Battaglia, ma insomma la CO2 è un problema. Un pianeta a basse emissioni porterà 26.000 miliardi di benefici economici, ma solo 16 paesi sono in linea con l'accordo di Parigi. È l'allarme globale. Ci aspettiamo di essere costretti dalla natura per agire, i costi saranno astronomici. E allora non aspettiamo questo diktat della natura, poveretta natura, in questo caso innocente, comunque. Diciamo che è più colpevole il capitalismo, ma non si può dire, quindi diciamo natura. Soluzioni: più foreste e meno inquinamento, gli alberi spugna guariscono la terra, i progetti dell'ENI, riforestazione in Africa e sostegno alle comunità locali, cioè esattamente il contrario di quello che fanno in Africa e fa anche Bolsonaro in Brasile. Nel frattempo la Banca Mondiale, che evidentemente secondo i giornali sarà fatta bolscevica anche lei, perché abolire i sussidi a chi consuma le risorse naturali. TAC è la vera spinta per l'economia circolare, il ruolo degli investimenti privati. Ecodesign, i governi premiano le aziende che progettano in maniera intelligente il prodotto. Questo, i fondi attivisti del clima così annullano i gas serra dai portafogli globali. Insomma, delle cose ci sono e andrebbero garantite e potenziate. Altri invece sono in crisi, secondo il Sole 24 Ore. Segnale di crisi per lo shale oil in USA, che fu un po' la carta giocata da Obama, questa esplosione per scatenare gas sottoterra per sostituire al petrolio. Quindi mancano fondi, la geologia tradisce. La produzione americana è di gregge, a luglio è calata per il terzo mese consecutivo. Notizie che puoi trovarmi in pagina internazionale quando parliamo delle guerre per il petrolio. Il mercato dei capitali si è chiuso con i freakers, in calo la produttività dei posti. Sì, giustamente quando ha aperto la rassegna Alfredo ha detto intanto che i giovani si occupano di realtà veramente importanti come l'ambiente, come l'ecologia e via discorrendo, i grandi si perdono in altre cose, no? Ad esempio a pagina 9 del Resto del Carlino, duello Curia-Lega sul tortellino pro-Islam, quanto se n'è parlato, pensate un po' in cosa si stanno perdendo tra virgolette i grandi, intanto che questi sfaccendati giovincelli sono preoccupati per l'ambiente, che tempo perso, meglio stare, e infatti sarò altrettanto veloce sul Resto del Carlino e su questa bagatella veramente di poco conto, duello Curia-Lega sul tortellino pro-Islam, Bologna-Salvini all'attacco, il vescovo Zuppi strumentalizzato, una fake news, perché è una fake news? Perché semplicemente non ha stravolto nulla, ha detto che c'è una possibilità di scelta per chi non gradisce la carne di maiale e questo è assolutamente consentito. sentito la libertà di mangiare ciò che uno più gli aggrada. Il bello è che gli attacchi a questa tradizione petroniana di chi più ne ha più ne metta magari viene dalle stesse persone che poi mi vengono a dire a me: no, ma guarda che bisogna sdoganare gli spaghetti bolognese, perché assolutamente per motivi di commercio, per essere una città internazionale, perché... E poi dopo si attaccano a questa libertà di scelta. E beh, ricordiamo fino a pochi giorni fa Salvini che si vantava di mangiare un piatto di tortellini con il ragù star, capito? Questa è un po' la tradizione vista in maniera assolutamente strabica, se non che miope. Beh, direi di, come si può dire, liquidare. Per rispetto, il vescovo di Bologna ha lanciato i tortellini senza carne di maiale. Vi rendete conto, dice Salvini, stanno cercando di cancellare la nostra storia e la nostra cultura. Dai mo, avanti così. Questo è quanto. Ma per passare dal Carlino a Repubblica, vi dico solo una cosa e mi collego ai sedicenni, perché se ne è parlato ieri, se ne parla anche oggi, poi do la linea al Alfredo, taglio dei parlamentari al traguardo e poi arriverà il voto ai sedicenni, completa così le riforme la Repubblica e si collega appunto ai giovani. Sì, il consiglio di Nicea si discondeva se consustanzialità o sostanzialità, ovvero sia se il Cristo era anche parte di Dio, era una cosa diversa. Ora parliamo se l'anima è dei tortellini. Devo dire che non è uno scherzo, perché Camillo Langone dal Giornale: ideologia tavola, così un piatto perde l'anima. E quindi ecco che il tortellino diventa radici cristiane. Poi si va la sera con gli amici in un'osteria, dice: abbiamo passatelli in brodo di pesce, tortellini al cacao, eccetera, eccetera, eccetera. E al di là della ragù dello star. Ma ovviamente questa cosa fa infuriare Vittorio Feltri. Roba nostra. Crocifissi e tortellini non sono di Allah. Quindi impariamo che Feltri non solo ha privatizzato l'Italia, l'acqua, ma anche il crocifisso, è roba nostra. Questo è probabilmente neanche azionista di Gesù, Feltri, questo è. L'altra cosa è appunto il crocifisso. Vittorio Sgarbi dice: altro che libertà, è solo un insulto alla nostra storia. Togliere il crocifisso dalle aule poi non sarebbe un'invasione islamista, sarebbe un'invasione casomai laicista, che il libero stato di libera chiesa. Ma anche qui torna il discorso della cacciara e del paradosso, perché c'è Fioramonte, il ministro dell'istruzione, che è sotto accusa da più parti, non solo dall'estrema destra, che dice: sono sgomento di fronte a questo vespaio di polemiche, leggo da stamattina, non è all'ordine del giorno, non è una priorità, ma la domanda, ho espresso una mia opinione. Quindi fare domande tra bocchetto, così uno risponde e poi dopo bastona, no? Vediamo, questo è il ministro dell'istruzione Fioramonte, è su Radio Capital. Dunque, credo in una scuola laica, anzi raccontare che il ministero sta lavorando per le edilizie scolastiche, sta aiutando l'amministrazione, si discute su quello che ho detto sul crocifisso, poi su Ius Culture, segno di civiltà. Questo è quanto, questa è la realtà dei fatti, no? Ma Melloni, storico cattolico: una destra che sia credibile rispetta la Chiesa. Qui c'è un dibattito tra favorevoli e contrari, perché anche i favorevoli sono: no, basta, togliamo i crocifissi, non se ne può più. Gli altri: no, non toccate i crocifissi, perché è la nostra tradizione cattolica, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi tutto il dibattito, ancora una volta, va, dicevamo, nella parodia. E anche il Corriere, leggiamo: crocifisso, Fioramonte isolato, giro del 5 Stelle, cielo, attacca. Il Di Maio, il tema non è all'ordine del giorno. Poi è anche curioso che in questo paese uno non può più dire le sue opinioni, ci sono dei tabù che uno non può dire. Uno non può dire: ma io personalmente sarei per togliere il crocifisso, poi bla bla bla. E allora abbiamo Tommaso Labate, fughi in avanti e gaffe, così il ministro si candida a diventare il nuovo Toninelli. Il capo 5 Stelle confida: per noi è come Bertinotti. E dai che Bertinotti torna. Perché ogni tanto il fantasma comunista ci vuole assolutamente. Allora passiamo da tutt'altra parte. Nell'inchiesta sui presunti fondi russi alla Lega, pagina 9 della Stampa, Savoini, il mistero della chat criptata sul suo telefono. I PM non sono riusciti ad accedere alle conversazioni su WCKR, Wicker. La verità nascosta nel cellulare di Gianluca Savoini rischiano di restare per sempre un mistero. La procura ha scoperto che c'è una seconda chat segreta nel telefonino dello sherpa dell'ex ministro dell'Inbella, la definizione sherpa, quindi è un caronte, secondo me, più che che uno Sherpa. Dall'interno, ministro Salvini, in Russia c'è un'applicazione blindata e protetta da un sistema di crittografia sicuro. I messaggi si autodistruggono nel giro di pochi secondi, 007 questo, al massimo in 6 giorni, a livello di cifratura della comunicazione detta dagli esperti militare e non solo. Nata a San Francisco per garantire le privacy delle comunicazioni tra uomini d'affari, salvo poi essere usata, ma va da sé, anche dai narcotrafficanti nel mondo. Questa applicazione è molto diffusa, è la messaggistica istantanea molto diffusa in Russia. Gli stanno facendo una pubblicità dopo questo che vedrete, vola questa applicazione. E tanto è però che alla fine un non parlare da parte di Salvini, di Savoini, un criptare anche e un evitare il confronto, che altro non è che una ammissione di colpa. Intanto, per restare nel tema, Moscopoli, il pizzino di Savoini, per un 4% destinato alla Lega. Sui 3 telefonini dell'ex portavoce di Salvini e degli italiani al Metropol, lo schema per la spartizione dell'affare con i russi, che avrebbe dovuto portare 65 milioni di dollari nelle casse di via Bellerio. Con un rapido giro di conti vanno poi a mettersi in pari con quello che non con i 49, no? 11, pagina 11, 9 anni Nicastri, l'amico di Arata proteggeva il boss, la sentenza ha finanziato la latitanza di Matteo Messina Denaro, gli affari sull'eolico con il consulente di Salvini e con Siri, è concorso esterno in associazione mafiosa e si indaga sui soldi all'ex sottosegretario. Ecco, insomma, è di questo. Da pagina 10 a pagina 11 di Repubblica si passa poi invece al resto del Carlino, che ha ben altre attenzioni. Come ben sapete, il Carlino è molto forbito e pieno di queste situazioni di cronaca. Se Salvini non parla e Savoini si rifiuta agli incontri e non si confronta con magistratura, invece c'è chi urla e lo fa a squarciagola perché non ne può più. La maestra urla, i bimbi vanno in sciopero. Ravenna, in 26 tenuti a casa dai genitori, l'insegnante ora in pausa per qualche giorno. La docente sta attraversando un periodo personale difficile, ma presto tutto sarà a posto, ne siamo molto contenti anche noi, grazie al resto del Carlino. Però noi siamo più attenti ad altre situazioni e la memoria corta purtroppo in questo caso diventa protagonista. Memoria corta e memoria morta. Siamo al 3 ottobre, quindi siamo a una ricorrenza, il 3 è una commemorazione più che una ricorrenza. 3 ottobre 2013, furono 368 le vittime del naufragio a poche miglia dal porto di Lampedusa. Dopo quella tragedia il governo italiano varò la missione Mare Nostrum. Le immagini delle bare allineate all'interno dell'hangar con le 4 più piccole bianche posizionate davanti a tutte hanno fatto il giro del mondo e resteranno tra quelle destinate a diventare uno dei simboli dei tanti drammi dell'immigrazione. È una strage. 368 le vittime del naufragio avvenuto oltre ottobre 2013 davanti a Lampedusa, la tragedia che almeno per qualche tempo riuscì a cambiare le politiche europee sull'immigrazione. Dopo quel dramma, infatti, il governo italiano, Premier Letta, diede il via all'operazione Mare Nostrum, che in 12 mesi di attività riuscì a salvare più di 160.000 uomini, donne e bambini. Grazie a quella missione l'Italia ha salvato l'onore dell'Europa, dirà anni dopo il presidente della Commissione Europea Juncker, quando ancora la politica dei porti chiusi era presente solo nei peggiori incubi, che purtroppo, aggiungo io, sono diventati materia concreta e realtà. Ah, ma vuoi mettere Willy col problema del tortellino? Ci avverte Bignami, in capo di Fratelli d'Italia. Non è tanto per il tortellino, perché un po' si vergogna di venire sull'argomento anche lui, perché c'è anche lui, c'è un limite di decenza che poi fa anche ridere parlarne, ma perché quel che c'è dietro è dietro il tortellino col pollo c'è il bolscevico, c'è Mosca, perché il rispetto passa dalla citazione da parte di chi arriva anche delle piccole tradizioni locali, non dalla loro rinuncia. Per chi non è del Bologna o Emiliano Romagnolo capisco che la cosa possa apparire poco seria, ma non è così sciocca come qualcuno cerca di fare credere. E ribadisce Gabriele Canè, un ripino di tradizione. Non so se modenese o bolognese, perché già il tortellino a Modena è più piccolo con un ripino diverso, quindi non so. Però a questo punto mettiamoci una parola chiarificatrice definitiva. Ma questo punto i bolognesi in coro là là, e lo Zecchino d'Oro che dice parola di saggezza rispetto al dibattito politico. Pagina internazionale, andiamo ad Hong Kong, dove la vicenda si fa sempre più dura di scontri tra forze dell'ordine e manifestanti, e sembra tramontare ogni possibilità di composizione politica per arrivare a una rottura completa dai contorni dir poco allarmanti. E allora il corteo e gli spari nel video shock. Hong Kong, la polizia apre il fuoco durante le manifestazioni, quindi il 115° giorno di protesta. Vi si vede chiaramente un manifestante, quello che noi, da noi chiamerebbe un black bloc, aggredire con un bastone un poliziotto, e quello che gli spara a distanza ravvicinata, e quindi è il manifestante in condizioni gravi all'ospedale. La marcia ruba la scena alle sfilate di Pechino per i 70 anni della Repubblica Popolare. Questo il ragazzo mascherato, non siamo soli, i duri in prima linea. Questo è quanto, il giorno più lungo dell'ex colonia britannica, naturalmente essendo scontri che accadono nell'altra parte del mondo, in estremo oriente comunista, e tutti i giornali sono a favore dei manifestanti. Se fossero magari gilet gialli in Francia, si respireremmo un'aria diversa. Comunque, il giorno più lungo dell'ex colonia britannica, per la prima volta gli agenti usano proiettili veri, la sfida della manifestazione è proibita, il monito dell'autorità: non infrangete la legge. Un giovane colpito brucia appieno dalle forze dell'ordine. Nel frattempo a piazza Tiananmen si rivendica la vecchia massima che non c'è grande potere economico che non si difende con un grande fucile, quindi la Cina scende in campo con tutto l'armamento possibile immaginabile per dimostrare che è una potenza nell'Oriente, non solo. Sfoggio di forza, sì, si veste da Mao. Viene buono anche il vecchio timoniere per questa vicenda. La Cina mostra i razzi anti-USA e Hong Kong spara in piazza. Repressione violenta, infine di vita un manifestante colpito in pieno petto, a Pechino maxi parata militare. Oltre 180 arresti, il capo della polizia è ragionevole ricorrere alle armi. Schierato, Trump si congratula con il leader Xi Jinping, ma tace sulle proteste. E naturalmente, siccome c'è da colpire il governo italiano anche per quello che c'è da Hong Kong, il giornale fa un volo pindarico e dice: un proiettile sulla via della seta, e quel disperato grido di libertà. Sì, poi non facciamo tanti verginelli, perché non è che a Genova 2001 se ne è andati tanto per il sottile, per dire. Comunque, Hong Kong, la polizia spara i dissidenti, alta tensione nelle piazze, la governatrice festeggia i 70 anni della Repubblica Cinese, la rivolta popolare, pagina 7 del Resto del Carlino, gli scontri, l'uso della forza è lecito, uno studente di 18 anni colpito a bruciapelo è grave. Questo è il dragone in affanno, i timori del regime di Cesare De Carlo, dal Resto del Carlino. La polizia spara, il giorno più nero di Hong Kong, le immagini inquietanti vengono prese invece da Repubblica, lo mette in primo piano, e si poggia i supermissili, in un'ora arriverà negli Stati Uniti d'America. Sì, esattamente come ha detto Alfredo, super armata la Cina quando c'è da difendere la situazione presente. Proteste senza fine, la polizia spara, paura per un attivista, la parata per i 70 anni del partito della Repubblica Popolare Cinese, con uno sfoggio militare di grande potenza, tutta la Cina ha festeggiato i 70 anni di Repubblica Popolare dal 1 ottobre 1949, quando Mao Zedong proclamò la Repubblica di Pechino, sulla piazza di Tiananmen a oggi. Andiamo ad altre figure, a pagina 12, perché di figure si parla. Il miglior avversario di Bolsonaro, lui e la sua famiglia, intervista a Cork Viana, membro del PT, ex presidente del Senato, che ha trasformato gli ideali di Florestiana in politica nazionale. L'attuale governo è un incubo, lo credo bene, soprattutto per gli indios e per l'Amazzonia, che ci riporta ai tempi della morte di Chico Mendez, alla gravità di quel momento tragico. Al potere c'è un gruppo di fascisti in simbiosi con il popolo, che hanno una larga maggioranza, controllano tutto. La gente comincia a risvegliarsi, dice, ma ci vorrà ancora tempo. Restiamo in Brasile, Lula libero, ma ora il come viene prima del quando. Giudici screditati, quindi uscirò da qui solo quando sarò riconosciuto innocente, come deve essere del resto al 100%. Dopodiché le parole usate da Bolsonaro, l'attacco ai diritti agli insegnanti da lui definiti spazzatura marxista, e all'ambiente, sapevamo chi ha dietro. L'ex presidente ha diritto al regime di semilibertà, ma non vuole che sia firmato dagli stessi che lo hanno incastrato. Lasciamo il manifesto. Vediamo se anche dalla pagina degli esteri della Repubblica riporta qualcosa che sia oltre la ovviamente la notizia principale, che è quella della che è quella della, della Cina e di Hong Kong. E beh, c'è il rapporto di cui abbiamo già parlato di Roma e Pompeo, che chiede a Pompeo aiuto su Libia e migranti e sui dazi, linea moribonda. Al segretario di Stato americano ricevuto da Mattarella e Conte, gli Stati Uniti preoccupati dall'apertura italiana alla tecnologia 5G cinese. Beh, questa è, diciamo, una strizzata d'occhi che potrebbe mettere veramente in drizzare le orecchie, allo stesso tempo agli Stati Uniti d'America, per il rapporto commerciale con una cosa veramente dominante. Il monito degli inviati di Trump, Di Maio non ostacoli il Russia Gate, la controinchiesta romana della Casa Bianca. I procuratori vogliono aiuto per trovare il professore della Link University che ha offerto la mail di Hillary Clinton. Quindi, parlando allora ancora di Hong Kong, è chiaro che questo movimento dei cosiddetti ombrelli non è più contro la legge dell'estradizione, ma è sul ritorno di Hong Kong all'interno della Cina. Che cosa vuole questo movimento? Da chi è composto? Che sbocchi avrà? L'abbiamo chiesto al ricercatore Alessandro Albana. Sentiamo la sua risposta. Rispetto al manifestante che questa mattina è stato ferito, effettivamente è stato ferito, anche la polizia di Hong Kong ha ufficializzato la notizia, si è peraltro scusata per mezzo di una sua portavoce. Come in qual è questo processo che è cominciato a giugno? Sicuramente cosa non facile. La voglia, il tentativo e la tentazione anche di mettere un'etichetta su un movimento che effettivamente tanto univocamente non può essere etichettato, c'è e forte, soprattutto diciamo da chi guarda da lontano, quindi anche da parte nostra. Però ecco, in realtà a guardare bene non c'è la possibilità di mettere un'etichetta univoca o una e una sola etichetta sul movimento, che ha sicuramente le frange filo occidentali. Abbiamo visto tra l'altro anche sventolare la bandiera britannica in più occasioni, ma che all'interno delle sue articolazioni varie, insomma, anche delle componenti che predicano l'anticapitalismo, che protestano tra le altre cose contro il prezzo insostenibile degli immobili e degli affitti a Hong Kong. Insomma, non c'è un'unica anima, ce ne sono diverse, con diverse istanze e con diversi obiettivi sicuramente. Questa protesta è partita, diciamo, dalla legge sull'estradizione, che poi è stata anche ritirata, ma le rivendicazioni che vengono portate avanti oggi sono, come dire, anche su altri temi? In maniera quasi naturale, al momento in cui un movimento esplode come è successo a Hong Kong, è quasi inevitabile che insomma al suo interno si cristallizzino diverse istanze che sono emerse anche in passato. Peraltro anche da un punto di vista storico, siccome molto spesso viene detto che giustamente insomma il movimento a cui abbiamo assistito in questi mesi è fondamentalmente anticinese, perché i cinesi non gli permettono di decidere delle sorti della città, perché il board dei governatori e delle autorità cittadine viene prima filtrato dalle autorità cinesi. Beh, va anche ricordato che durante il periodo inglese, che si è articolato per circa 150 anni, non è che fossero più larghe le libertà e i diritti civili degli abitanti di Hong Kong, tant'è che anche in quella fase ci furono diversi episodi di proteste anche parecchio violenti. Quindi ecco, se dovessi inquadrare da un punto di vista anche storico quello che sta succedendo a Hong Kong, cosa che credo debba essere fatta per capire appieno le ragioni e gli obiettivi di questo processo, insomma, non c'è soltanto un'opposizione cinese, ma c'è probabilmente un coagularsi di diverse istanze non risolte all'interno della società di Hong Kong. Sicuramente la extradition bill, la legge sull'estradizione, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, se vogliamo, diciamo, l'ennesimo episodio di un processo evidentemente più lungo. Però ecco, ancora una volta questo movimento ci invita a problematizzare quanto sta accadendo. Ti vorrei fare una domanda sull'atteggiamento della Cina, perché insomma in alcuni casi la Cina usa il pugno di ferro, almeno da dichiarazioni ufficiali, invece sulla questione appunto di Hong Kong ha usato un po' più di cautela, è così? Diciamo che tendenzialmente la linea della politica cinese, la linea delle autorità cinesi è quella di mantenere un profilo quanto più diplomatico possibile, almeno quando si interviene su questioni sulle quali non si è, diciamo, attaccati direttamente. Hong Kong è naturalmente una di quelle dimensioni per cui la leadership cinese è più esposta dal punto di vista internazionale, e quindi anche da un punto di vista di immagine prendere una posizione eccessivamente decisa non porterebbe grandi risultati da un punto di vista, diciamo, di immagine pubblica del paese. Che da Pechino non si veda di buon occhio quanto sta accadendo è, diciamo, presto detto, dal momento che insomma si tratta di un paese che ha fatto della stabilità politica il suo obiettivo principale, sicuramente uno raggiungendo i suoi obiettivi principali. Quindi vedere, guardare a quanto accade a Hong Kong da Pechino crea sicuramente più di qualche fastidio e di qualche preoccupazione. Il reale intervento delle forze cinesi su Hong Kong è effettivamente, diciamo, ancora dibattuto e dibattibile, nel senso che si è vociferato dell'intervento di personale inviato direttamente da Pechino. Poi questa cosa è stata ritrattata in quanto Pechino ha informato che, insomma, si trattava di normale ricambio del personale. Sono emersi filmati di mezzi corazzati al confine tra Hong Kong e Shenzhen, che è la prima città cinese a ridosso di Hong Kong. Sono tutte notizie che trapelano, su cui è difficile verificare in maniera puntuale che ci sia un interesse da parte di Pechino a che quanto sta accadendo, diciamo, si risolva nella maniera più pacifica e veloce possibile. Sicuramente è possibile affermarlo, ecco, però quale sia il reale intervento è materia di più difficile identificazione. Peraltro nelle parate in corso a Pechino, che oggi erano in corso a Pechino per le celebrazioni del 70° anniversario della fondazione della Repubblica Popolare, c'erano anche delle forze che erano state presenti a Hong Kong, a quanto pare. Quindi, insomma, anche questo, e anche in questo senso c'è, come dire, un qualche riferimento che viene fatto, ma quasi mai in maniera aggressiva, devo dire. Rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Penne di classe e piume d'oca. E allora le ultime notizie dell'internazionale ci riportano in Europa, per quel voto che anche quello è parodia, in cui il Parlamento europeo ha parificato nazismo e comunismo. Allora giustamente commenta Giorgio Cremaschi di Potere al Popolo dall'online contropiano: l'anticomunismo è sempre una bestialità reazionaria. Il voto con il quale la grande maggioranza del Parlamento dell'Unione Europea, con uno schieramento che comprende forze di reazionari di estrema destra, liberal, democratici, democristiani, socialdemocratici, europeisti e sovranisti, tutti insieme, ha votato l'equiparazione di comunismo e nazismo a una sciocca e infame operazione di revisionismo storico. E Cremaschi ha assolutamente ragione, motiva poi questa sua affermazione. Per il Parlamento dell'Unione Europea la Seconda Guerra Mondiale sarebbe scoppiata per pari responsabilità dell'Unione Sovietica e della Germania nazista. La battaglia di Stalingrado sarebbe solo un episodio marginale di essa e la liberazione dell'Europa sarebbe merito degli americani. Come nei film di Benigni, dove un carro armato nordamericano è quello che entra ad Auschwitz. Naturalmente è un falso, perché entrano l'Armata Rossa ad Auschwitz, perché quasi tutti i campi sterminio erano sul lato orientale, quindi era materiale generale Zhukov. Ecco, ma intanto ormai la revisionismo storico, la balla, in realtà al di là del dibattito su Stalin, l'Europa deve alla resistenza dell'Unione Sovietica buona parte della propria libertà del dopoguerra, perché due terzi degli armati teleriani erano coinvolti in questo fronte orientale, fino a prova contraria. Ma le prove qua non contano più, contano i follower e i click. Ma invece c'è qualcuno che resiste, è un genio, uno dei grandi artisti del contemporaneo, Banksy, che nel 2009 fece uno dei suoi ritratti quadri parlando del Parlamento inglese, profetico: deputati come scimmie, la Brexit va all'asta, e fa record col Banksy. Ormai è valutatissimo Banksy come artista, quindi tu può toccare la valutazione a Sotheby's 2,5 milioni di dollari, ma sono tutti i vari parlamentari da una parte alla, tutti come il pianeta delle scimmie, ed è un'offesa alle scimmie vedendo quello che succede. Questo è quello che riguarda la Brexit e Banksy. Andiamo invece in Portogallo, modello portoghese. Adesso il Portogallo era stato una mosca bianca in Europa, perché un'alleanza centro-sinistra-sinistra aveva garantito una flessibilità maggiore, un ritorno fuori dall'incubo della fiscal compact e un rilancio, però il meccanismo si è incrinato. Allora, modello portoghese: la sinistra alla finestra, provaci ancora Costa. Elezioni il 6 di ottobre. Il premier socialista sogna la maggioranza, ma dopo il caso Tancos, che sono tanti scandali, avrà bisogno di ancora dei compagni, messo so perché tra virgolette, invece i compagni sinistri sono compagni e basta, e loro vogliono far pesare il sostegno. Ma guarda un po'. E allora invece vengo in Spagna, Catalogna, gli indipendentisti rilanciano la lotta mentre Sánchez minaccia il commissariamento. Leggo ancora dal Fatto Quotidiano: 2 anni dal referendum con Alessia Grossi, tra qualche giorno la sentenza e il leader in carcere, perché Sánchez vuole dialogare con i leader per una transizione morbida, un'autonomia invece che l'indipendenza, ma non si parla quando tiene i leader di un movimento in carcere. Evidentemente è un controsenso. Vengo allora alla pagina locale. Allora abbiamo il patto olimpico. io direi il pacco olimpico, c'è un refugio sul Carlino, perché Bologna viene tutto meno che non di tortellini al pollo, ma di Olimpiadi. Giochi 2032, il convegno di Nazione e Carlino. Naturalmente Nazione e Carlino è un convegno finto, perché è la stessa cosa, quindi è lo stesso gruppo editoriale. Un coro di sì alla candidatura di Bologna, Firenze. E qui c'è il coro di sì, vengono poi riassunti, no? Asse con Roma dice Merola, il piano delle opere, infrastrutture, il sindaco, ne sto parlando con l'assessore Lepore. Cominciamo con i fondi sulla pista dell'Arcoveggio. Oddio. Non è che l'Olimpiadi vai solo all'Arcoveggio, con tutto il rispetto dell'ippodromo. Mano tesa alla Raggi, l'idea di sostenibilità sia comune alla capitale, che si può pensare alla cerimonia di apertura e chiusura in quel di Roma. Ecco, questo è l'Olimpiadi secondo Bologna. Velocemente dall'università invece, da Repubblica, la protesta, specializzando in rivolta contro le tasse. L'Ateneo annuncia rincari di 254 euro a testa, i camici bianchi, fermatevi o scioperiamo. Così dichiarano, l'alma mater diventa green, meno plastica, alle matricole sono distribuite 25.000 borracce. Allora, noi chiudiamo con l'intervista per quanto riguarda l'ultimo spazio di approfondimento, prima di cedere la linea a Rachele Copparoni con la seconda puntata di Fusi Comics dalle 10.30 dopo la pubblicità. Approvato nel luglio del 2018 dal Consiglio Comunale l'ordine del giorno che chiede di intitolare uno spazio pubblico a Federico Aldrovandi, il giovane ucciso nel 2005 dalla polizia. Non è ancora stato attuato, eppure sono state raccolte già 650 firme ed è già stata individuata la struttura, il centro giovanile del Meloncello. Il consigliere Francesco Errani ha sollecitato l'amministrazione. Sentiamo le sue parole. Il 16 luglio del 2018, quindi più di un anno fa, un mio ordine del giorno è stato approvato dal Consiglio Comunale, sottoscritto da più di 15 consiglieri comunali, un ordine del giorno appunto che chiedeva di intitolare un luogo pubblico a Federico. Però appunto in quest'anno non si è mosso nulla? E purtroppo no, e per questo, ricordando appunto, l'hai ricordato tu, purtroppo sono passati 14 anni dalla morte di Federico, era 25 settembre 2005, e purtroppo non è stato ancora titolato un luogo, e quindi ieri sono intervenuto per ricordare l'importanza invece di questa decisione già presa non solo dal Consiglio Comunale di Bologna, ma anche dal quartiere, sempre più di un anno fa, dal quartiere Porto Saragozza, con un ordine del giorno votato all'unanimità dai consiglieri di quartiere. E tra l'altro voglio ricordare anche che l'iniziativa nasce da una collega nel mandato precedente, Maria Letizia Tega, che aveva anche raccolto nel quartiere Porto più di 650 firme di cittadini bolognesi. Quindi credo che oggi sia importante, invece, visto che è già stato individuato un luogo possibile dal centro giovanile del Meloncello, c'è la disponibilità del quartiere, credo anche che sia un luogo giusto per ricordare Federico, perché è un centro di aggregazione culturale, sociale, sportivo per tante giovani generazioni, e quindi un luogo che può rappresentare appunto una risposta alla domanda che anche i ragazzi in futuro potranno farsi: chi era Federico Aldrovandi? In realtà appunto la città di Bologna ha già dato riconoscimenti alla famiglia, in particolare nel 2013 è stata conferita la cittadinanza onoraria a Patrizia Moretti. Ti volevo chiedere se hai avuto modo di capire dalla giunta, dall'amministrazione, se i problemi sono, come dire, tecnici o appunto cosa sono dovuti questi ritardi. Ma allora, l'hai ricordato tu, proprio nel 2013 la cittadinanza onoraria a Patrizia Moretti, una donna coraggiosa che con determinazione, lo sappiamo, ha lottato per arrivare alla verità sulla morte del figlio. Quindi il sindaco di Bologna l'ha ricordata, gli ha conferito questo riconoscimento proprio perché Patrizia è un esempio per tutti i cittadini. Io credo che i ritardi purtroppo siano dovuti forse a una burocrazia che non aiuta, e quindi so che il percorso nell'ufficio toponomastico del comune è abbastanza complesso, però visto che c'è la decisione che è stata presa, c'è la disponibilità del quartiere, il luogo è già stato individuato, credo che occorra adesso uno sforzo per arrivare invece in tempi brevi all'intitolazione. Tu dicevi è importante arrivare a questa intitolazione, perché è importante? È importante per sensibilizzare e promuovere l'informazione sugli abusi di potere delle forze dell'ordine, di qualunque soggetto in posizione dominante. È importante per tutelare la memoria di Federico, per evitare offese e strumentalizzazioni. Sappiamo che ci sono state, che sua mamma ha dovuto lottare contro queste omissioni. E poi credo che sia importante per Federico, per la sua famiglia, i suoi amici, ma anche per tutti noi, per la nostra dignità.